Quante volte abbiamo sentito ripetere la messe abbondante, gli operai sono pochi, pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. E io so che i più sensibili del popolo cristiano sentono questo tema e pregano per le vocazioni sacerdotali e anche per i sacerdoti, perché si fa tanta fatica a tirar su un ragazzo nel tempo del seminario, a farlo diventare prete, e poi dopo senti ancora con una certa frequenza l'uno ha abbandonato il sacerdozio, oppure è morto in montagna un giovane prete di 47 anni che era via con i ragazzi dell'oratorio. Allora diciamo, Signore, fa crescere vocazioni sacerdotali e custodisci i tuoi sacerdoti. Però io vorrei fare un passo in più. Non dobbiamo identificare gli operai della messe solo con i sacerdoti. Per esempio, proviamo a pensare a tutte le persone che hanno scelto nella loro vita un cammino di speciale consacrazione. I religiosi, i frati, di tutte le famiglie religiose sono tante. Le suore, idem. Dei laici che vivono nel mondo in famiglie laicali consacrate e ne sono sorte ultimamente. Dopo il concilio, anche lì diverse tipologie. E infine tutti i battezzati. Perché c'è una verità nel catechismo, è conosciuta da tutti, ma viene non facilmente ricordata, che ciascuno con il santo battesimo acquisisce un sacerdozio battesimale. Se il sacerdote è colui che fa l'offerta a Dio dell'Eucaristia, il sacerdote battesimale è colui che anche lui fa l'offerta a Dio, di se stesso, dei suoi, del mondo. Il sacerdozio battesimale ce l'avete tutti voi che siete battezzati. Allora mi fermerò qualche minuto su questo. Signore, ti prego, rafforza questo sacerdozio battesimale dei tuoi fedeli. Perché, se notate bene, i primi apostoli del Vangelo sono i genitori in casa. Chi battezza o non battezza un figlio? I genitori. Chi li tira su insegnando le preghiere? I nonni. Quante volte ho chiesto a giovani: ne hai imparate le preghiere? Sì. Te le ha insegnate la tua mamma? No, la mia nonna. Ah, che bello! Quindi anche queste sono operai del Vangelo. Poi voi che siete qui alla Santa Messa in un giorno feriale, per fortuna ci siete voi, se no io cosa dovrei fare? Dovrei dire la messa da solo o col sacrestano? Il popolo cristiano che mantiene la fede nel mondo, siete voi. E se poi guardiamo chi mantiene viva nella Chiesa la grande tradizione, oggi è la Madonna del Carmelo anche, la grande tradizione dell'amore alla Madonna. Sì, conosco anche diversi sacerdoti, ma ne conosco anche tanti tiepidi verso la Madonna. In compenso conosco tantissima gente che ama la Madonna, che mantiene vivo il pellegrinaggio nei santuari della Madonna, tutti da quelli mondiali a quelli regionali, a quelli paesani. Chi mantiene belli tanti piccoli santuarietti di paese? Il popolo. Inoltre io ho imparato, per esempio, a recitare la coroncina, non dai sacerdoti, l'ho imparata da alcune donne. Ho imparato, quando riesco a fare un po' di digiuno, dalle donne, dal popolo cristiano. Ho imparato che la Chiesa viene mantenuta aperta, ordinata, servita dal popolo cristiano, da voi. Ecco, quindi chiedo al Signore che non lasci mancare mai operai per la sua messe, sia consacrati, sia sacerdoti, sia religiose e religiosi, ma anche il popolo cristiano che ha il suo sacerdozio battesimale.